660 budino alla tedesca. Midolla di pane sopraffino grammi 140, burro grammi 100, zucchero grammi 80, uova numero 4, odore di scorza di limone, una presa di sale. Se trovate del pane in forma uso inglese, servitevi di questo che è meglio d'ogni altro. La midolla, sminuzzatela o tagliatela a fette e bagnatela con latte di accio. Quando sarà ben inzuppata, strizzatela da un canovaccio e passatela dall'ostaccio. Il burro d'inverno, struggetelo a bagnomaria e lavoratelo con un mestolo insieme coi rossi d'uovo finché l'uno e gli altri siano sì incorporati. Aggiungete le chiare, la midolla e lo zucchero e rimestate ancora. Versate il composto in uno stampo unto col burro e spolverizzato di pangrattato e cuocetelo come gli altri budini, cioè nel fornello. Se lo fate con attenzione, vi riescirà di bell'aspetto e di gusto delicato. Si serve caldo.